le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Terrorismo, ci sono rischi dall'immigrazione, dice il ministro degli esteri Gentiloni, ha parlato poco fa anche Papa Francesco, dice all'orizzonte vediamo ombre e pericoli che preoccupano l'umanità, proprio parlando di terrorismo. Ed è stato arrestato un albanese a Catania, aveva anche delle foto nelle quali aveva in mano un Kalashnikov ed espulso dall'Italia un pakistano per dei click su siti jihadisti. Sul Quirinale, Grillo chiede a Renzi di fare la prima mossa. Fuori una rosa di nomi, scrive sul suo blog, e noi li faremo votare ai nostri iscritti. In Ucraina tornano le violenze, 13 morti alla fermata di un autobus e scambio di accuse tra ribelli filorussi e forze di Kiev. Indagine per truffa alle assicurazioni, tra i casi scoperti, quello di una donna incinta, avevano simulato un incidente e soppresso il feto per avere il risarcimento. È il giorno di Draghi, la Banca Centrale Europea potrebbe decidere oggi per l'acquisto di titoli di Stato, borse positive, Milano guadagna circa un punto percentuale. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre in apertura i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, il numero di SMS per intervenire in diretta durante la diretta, il 349-238-6666. Apriamo dunque parlando di terrorismo internazionale, perché ci sono le dichiarazioni del ministro degli esteri Paolo Gentiloni, mentre arrivano in questi minuti degli aggiornamenti su una vicenda della quale lo stesso Gentiloni ha parlato, ossia la scomparsa di un medico italiano in Libia. Ebbene, si è appreso che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona con finalità di terrorismo, quindi anche di questo si parla in questo caso, ma Gentiloni ha parlato prevalentemente di immigrazione, tutto questo nella giornata nella quale il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare le nuove norme. Il punto con Alessandra Schepisi, buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno, e sì, così il governo al lavoro sulle nuove norme antiterrorismo con il Consiglio dei Ministri che si riunisce alle 16, perché come ha confermato poco fa da Londra il ministro degli esteri Gentiloni, l'allerta rimane molto alta e ci sono, ha detto, rischi di infiltrazione notevoli anche di terroristi dall'immigrazione. Per fortuna i nostri apparati di sicurezza sono allertati e funzionano, ma questo non ci consente di abbassare minimamente il grado di preoccupazione, ha detto il responsabile della Farnesina, aggiungendo che il governo valuterà anche la possibilità di una legge sui viaggi a rischio. Serve grande chiarezza nelle regole e nei divieti, dopodiché lo Stato interviene per salvare i suoi cittadini, una riflessione che arriva evidentemente dopo le polemiche seguite al rilascio di Greta e Vanessa. Gentiloni poi tornerà per partecipare alla riunione di Palazzo Chigi, e tra le misure c'è una stretta su foreign fighters, cioè quei cittadini che per la loro attività di propaganda si ritiene abbiano superato la soglia di attenzione che ne consente la loro espulsione. Il Viminale sta infatti preparando anche una serie di decreti che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, misure speciali di prevenzione come il ritiro del passaporto a sospetti jihadisti, potenziamento dell'intelligence, dalle garanzie funzionali per gli 007 infiltrati e lo stanziamento di fondi per assumere personale qualificato e nuovi strumenti contro il cyberterrorismo. Alessandra, a proposito di espulsione di provvedimenti legati a presunti atti di propaganda, ci sono dei nuovi casi in queste ore? Sì, c'è un albanese di 30 anni che è stato arrestato dalla polizia all'aeroporto di Catania perché trovato in possesso di documenti falsi. È emerso dai controlli che era già stato denunciato il 13 gennaio a Malpensa perché in possesso anche lì di documenti falsi con cui voleva salire su un aereo per Londra. Allo scalo di Catania l'uomo era in possesso di una pendrive in cui erano state salvate foto di lui con un'altra persona mentre tenevano dei Kalashnikov. Lunedì tra l'altro è stato espulso, lo ricordiamo, un kosovaro di 22 anni, residente nel Cremonese, che aveva esultato sui social network per la strage di Charlie Hebdo, dicendosi pronto ad atti estremi per difendere l'onore del profeta. E poi c'era stata la notizia 2 giorni fa dell'espulsione dello studente turco dalla scuola normale di Pisa, in realtà avvenuta a dicembre, e comunque da fine dicembre sono stati espulsi 9 individui sospetti, ha riferito Alfano, e sono pronti i nuovi decreti di espulsione. Grazie ad Alessandra Schepisi. C'è un'altra vicenda che sta facendo discutere, è quella di un ragazzo pakistano di 26 anni che vive dal 2001 nelle Marche, o che viveva dal 2001 nelle Marche, tra l'altro volontario della Croce Verde, che è stato espulso a quanto pare per alcuni click sui mi piace di pagine Facebook collegate allo jihadismo. Parleremo col suo avvocato più avanti. Restando all'estero, ci sono anche le parole, proprio a proposito di terrorismo, del presidente egiziano al-Sisi a Davos, che dice: non bisogna permettere che il nostro futuro sia minacciato attraverso un'interpretazione errata dell'Islam, religione che predica la tolleranza. Così al-Sisi dice che serve un'unica voce in Egitto e all'estero contro il terrorismo. Andiamo adesso in un luogo dove si combatte, l'Ucraina, ancora oggi. Gigi Donelli, buongiorno. Sì, buongiorno. Un'altra forma di terrorismo, possiamo dire, visto che 13 persone uccise a una fermata dell'autobus questa mattina di sicuro non sono nient'altro che questo. Ora il punto, come sempre accade in questa vicenda, in queste vicende, è capire chi ha sparato. Allora, oggi è successo un fatto importante nella dinamica della guerra degli ultimi 9 mesi. L'aeroporto di Donetsk, che di fatto è un grosso centro strategico ma anche simbolico per il governo di Kiev, è stato perduto nella notte, un'operazione militare. Pensate, addirittura pare che gli attaccanti, in questo caso i filorussi, abbiano di fatto segato, fatto esplodere e tagliato i pilastri di cemento e quindi abbiano schiacciato un piano sull'altro con dentro i difensori, i famosi cyborg, famosi in Ucraina almeno, i cyborg appunto ucraini. Ecco, circa 4 ore dopo, quando anche Kiev era costretta ad ammettere la perdita di questo aeroporto, una salva di esplosioni nel centro della città, in particolare nella zona di Lenins, quindi nella pieno della zona controllate dalle cosiddette dalle forze della cosiddetta Nova Rossia. Questo è il quadro, in un contesto che dice che nel frattempo, negli ultimi 8 mesi e mezzo, sono più di 5.000 le persone uccise, 1 milione di persone costrette a fuggire, 10.000 le persone ferite da razzi e colpi di mortaio, in quello che è uno scenario sempre più drammatico. Grazie a Gigi Donelli anche per oggi e anche per questi aggiornamenti. Noi adesso passiamo a parlare di politica italiana. Sono ore che si giocano naturalmente tra i voti sulla legge elettorale, che proseguono in Senato, e dall'altra parte la trattativa per il Quirinale, dalla quale arrivano degli aggiornamenti importanti soprattutto al Movimento 5 Stelle. Questa mattina Elisabetta Fiorito in diretta a Montecitorio, è così, no? Sì, proprio così. Allora Simone, partiamo dal Senato, perché una seduta fiume è quella di oggi sull'Italicum. L'esame procede al ritmo spedito dopo lo stop alla minoranza Dem sui capolista bloccati ieri, l'approvazione, ricordiamo, dell'emendamento Cangura, firma Esposito, che ha tagliato 35.000 emendamenti, ma ne rimangono 12.000. Arrivano le parole del ministro Marianena Boschi, che dice chiaramente: quando finiranno le polemiche e leggeranno il testo, scopriranno che il Senato sta facendo una legge elettorale seria come promesso. Il presidente della Commissione Affari Costituzionali, Anna Finocchiaro, PD, ha poi riformulato un emendamento che interviene sul meccanismo di attribuzione dei seggi per evitare che ci sia casualità. Tutto ciò in attesa di quello che farà la minoranza Dem dopo il voto di ieri con i voti determinanti di Forza Italia sulla legge elettorale. Lo ricordiamo, l'ex segretario per Luigi Bersani ha riunito i suoi parlamentari, 140, con la minaccia di scissione, ma intanto prosegue, come hai detto tu, la partita per il Quirinale. Il Movimento 5 Stelle chiede al Premier Matteo Renzi di tirare fuori i nomi, mentre giallo su quello di Antonio Martino da parte di Silvio Berlusconi. Sembra che il Cavaliere abbia fatto il nome sullo slancio di una vecchia amicizia, ma la candidatura è molto ridimensionata in ambienti azzurri, e Berlusconi avverte la fronda di Forza Italia: adeguatevi o andate via. Testimone. Grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. E ancora a proposito di terrorismo, c'è una dichiarazione, una sorta di precisazione da parte del ministro degli esteri Gentiloni, che appunto oggi aveva collegato i rischi del terrorismo all'immigrazione. Dice: confondere terrorismo e immigrazione è un'idiozia. Sostenere che tra le decine di migliaia di disperati che approdano con i barconi sulle nostre coste si annidano terroristi armati di Kalashnikov non ha senso, il che non esclude che nella situazione di non ci possano essere rischi sui quali vigilano i servizi di intelligence e gli apparati di sicurezza. È il giorno di Mario Draghi, il giorno nel quale la Banca Centrale Europea potrebbe decidere per il quantitative easing, ossia l'acquisto di titoli di Stato. Ci colleghiamo con il corrispondente da Francoforte, il Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, la decisione potrebbe arrivare veramente oggi o insomma c'è qualche incertezza? Dobbiamo aspettare ancora un'ora e mezzo, è possibile che Draghi annunci la partenza di questo piano, perché ormai le aspettative create sui mercati sono troppo alte, ma che eventualmente lasci qualche dettaglio alla prossima riunione che si svolgerà ai primi di marzo. Non è previsto comunque che questi acquisti di titoli di Stato comincino prima di marzo. La proposta di Draghi è di comprare 50 miliardi di euro di titoli di Stato ogni mese almeno per un anno e poi, se ce ne sarà necessario, ancora fino alla fine del 2016. Però la proposta di Draghi per adesso non è ancora, o almeno fino a ieri sera non era stata ancora approvata dal Consiglio, dove, come si sa, ci sono delle divisioni, un'opposizione molto forte soprattutto da parte tedesca. Quindi dobbiamo aspettare ancora fino alle 2:30 conferenza stampa di Draghi per sapere quale sarà il piano della BCE. I tassi dovrebbero rimanere invariati comunque. Per avere aggiornamenti anche su questo ci ricollegheremo con te, Alessandro Merli, alle 13:45, appena appunto arriverà questa decisione, poi alle 14:30 il cuore di tutto, ossia appunto la conferenza stampa di Draghi. Ancora dati economici, sono quelli che arrivano dalle vendite al dettaglio in Italia, che a novembre tornano sopra lo zero dopo 7 mesi, con un rialzo dello 0,1% su ottobre. A dare impulso all'alimentare, più 0,2%, con il resto dei comparti fermo. Su base annua l'indice rimane negativo. La cronaca con un'indagine innanzitutto su una serie di truffe alle assicurazioni, ma potrebbe esserci anche un'ipotesi di omicidio. L'hanno chiamata Operazione Medical Market, la maxi operazione che ha smascherato una truffa alle assicurazioni da 2 milioni di euro e 144 persone indagate. Dietro questo preambolo asettico storie che si fa perfino fatica a raccontare. Un gruppo di persone avrebbe organizzato una maxi truffa architettando diversi finti incidenti. Tante le truffe portate a termine con incidenti stradali studiati a tavolino, ma uno in particolare è impressionante. Gli indagati avrebbero ottenuto infatti un risarcimento molto elevato, provocando uno scontro tra auto in cui è rimasta ferita una donna incinta e provocando, deliberatamente, sempre secondo l'accusa, la morte del nascituro. Le persone protagoniste di questa truffa avrebbero studiato nel dettaglio tutte le mosse da fare per arrivare poi ad avere un risarcimento record. In questa operazione sono coinvolte 144 persone, tra queste c'è anche un avvocato per il quale è stata chiesta la sospensione dalla professione forense. I capi d'accusa vanno dall'omicidio volontario al falso ideologico e materiale in atto pubblico. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altre due notizie di cronaca prima di andare a quello che succede sulle strade. Innanzitutto una storia che arriva da Parete, siamo in provincia di Napoli. Una maestra della scuola elementare è stata arrestata dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza ai domiciliari per maltrattamenti continuati ai danni di alcuni alunni. Ci sarebbero stati schiaffi e insulti, il tutto ripreso da una telecamera. E poi anche in procura a Bologna è stato aperto un fascicolo di indagine per fatti allo Stato non costituenti reato su le trascrizioni delle nozze gay celebrate all'estero nel registro comunale, che non sono state cancellate dopo la circolare di Alfano, esattamente come era avvenuto a Milano, dove anche qua la procura ha aperto un'inchiesta. Sono stati disposti accertamenti preliminari, ha detto il procuratore aggiunto Walter Giovannini, che si occupa della vicenda. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Scomparso un medico italiano in Libia, la procura di Roma apre un fascicolo con l'ipotesi di rapimento con finalità di terrorismo. Sul fronte agli jihadisti ci sono rischi dall'immigrazione, dice il ministro degli esteri Gentiloni, ma è un errore confondere le due cose. Oggi l'esecutivo dovrebbe tra l'altro varare nuove misure. Sul Quirinale Grillo chiede a Renzi di fare la prima mossa, fuori una rosa di nomi, scrive sul suo blog, e noi li faremo votare ai nostri iscritti. In Ucraina tornano le violenze, 13 morti alla fermata di un autobus e scambio di accuse tra ribelli filorussi e forze di Kiev. L'indagine per truffa alle assicurazioni, tra i casi scoperti quello di una donna incinta, avevano simulato un incidente e soppresso il feto per avere il risarcimento. Bentornato ai nostri microfoni a Roberto Giachetti del Partito Democratico, vicepresidente della Camera. Buongiorno Giachetti e bentornato. Spero che le condizioni siano possibili. Ma che sta succedendo? Ma c'è confusione in aula? Che succede? Insomma, stiamo votando il provvedimento sulle riforme costituzionali, che diciamo ci stanno un po' di animi tesi, però. Ma tesi quanto? Sono scattate le botte? No, le botte no, non siamo alle botte, però c'è qualche urlo, qualche cosa che avviene sempre, soprattutto toni concitati. Diciamo. Toni molto concitati. L'abbiamo chiamata per parlare innanzitutto del Quirinale, perché lei viene dipinto spesso come l'ufficiale di collegamento, per così dire, con il Movimento 5 Stelle e in particolare con il suo omologo nel Movimento 5 Stelle, che è l'altro vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio. Oggi sul suo blog Beppe Grillo dice: il PD, ossia Renzi, tiri fuori i nomi e poi noi mettiamo ai voti quelli. Sembra una chiara apertura, no Giachetti? No, guardi, veramente diciamo capire che cosa c'è con 5 Stelle è sempre difficile. Le segnalo che solo qualche giorno fa uno degli esponenti più vicini al presidente Di Maio e anche ai vertici del Movimento 5 Stelle, Danilo Toninelli, ha detto: noi siamo pronti a votare Prodi. Sono passati 42 secondi ed è arrivato un post di Grillo che diceva che Prodi doveva finire insieme ad altri 30 nomi nel tunnel dell'orrore. Quindi diciamo è difficile capire dove ci sia la tattica e solo la tattica, la confusione, però, e anche la voglia di fare. Però, Giachetti, il blog è organo ufficiale, quando sì. Grillo scrive una cosa là, è, diciamo, mediamente è legge per i fedelissimi del movimento, no? Quindi allora, a questo punto. In quel blog Grillo ha messo dentro il tunnel, scusi, come vede, non stavo raccontando delle fantonie, sentirà un po' di casino. Sì, ha messo nel tunnel dell'orrore praticamente tutti i nomi che sono fino adesso usciti. Adesso vuole altri nomi per mettere nel tunnel dell'orrore, poi dopo aver indirizzato il blog, una volta che dovesse arrivare una rosa di nomi, diciamo, il piatto è già preparato. Non funziona così, insomma, mi pare, no? Nel senso che queste non sono aperture, queste è, diciamo, giocare, ma noi in questo momento dobbiamo leggere il Presidente della Repubblica e non proprio giocare. Sì, quindi non avete nessuna intenzione di tirar fuori questi nomi voi? No, ma i nomi verranno fuori quando le consultazioni che sono in corso, che si stanno accadendo con tutti, saranno fatte, e ci sarà un punto di caduta sulle varie valutazioni che sono state fatte. Certo, non saranno fatte oggi, ma soprattutto, diciamo, non possono essere funzionali a quella che è la scelta di Grillo di prendere ogni nome e poi sparargli addosso. Ovviamente mi riferisco poi ovviamente. Sì, naturalmente, metaforicamente. Quindi le sembra che l'operazione sia solamente questa, cioè non ci sia un tentativo, come dire, di accordo, l'idea di lasciare il pallino in mano al Partito Democratico? Guardi, l'accordo è sempre possibile e io mi auguro che sia possibile, perché in passato su altre questioni tipo i giudici della Corte c'è stata la possibilità di fare un accordo. È chiaro che per fare un accordo bisogna avere una disponibilità comune, quindi noi faremo sicuramente, il segretario del partito farà sicuramente una rosa di nomi, lo ha già annunciato a tutti quanti, e ovviamente noi ci auguriamo che anche il Movimento di Grillo possa in qualche modo concordare, convenire, come è successo, ripeto, dalla Corte Costituzionale. Certo, se nei giorni precedenti si tirano fuori tutti i nomi e li si impallinano sul blog, è complicato che poi, diciamo, si trovi un nome magari diverso da quello che avevano solo in animo loro, e allora a quel punto ritorniamo allo schema Rodotà, che è legittimissimo. Senta Giachetti, nel Movimento 5 Stelle e anche qualche ascoltatore via SMS ci scrive, dice: sì, ma la realtà è che tanto voi avete, il PD ha già fatto l'accordo con Berlusconi sul Quirinale, quindi è inutile che stiamo là a raccontarcela. Guardi, diciamo, ci si dicono determinati, cioè si fanno determinate affermazioni perché in realtà si ha paura di misurarsi, perché non è così. Abbiamo detto fin dall'inizio, io personalmente, ma anche lo stesso Presidente del Consiglio e tanti esponenti del Partito Democratico che sono intervenuti, che noi siamo assolutamente aperti, perché riteniamo che il Presidente della Repubblica sia una figura ovviamente che dovrebbe essere votata al più numero alto di persone. Addirittura sappiamo perfettamente che per eleggerla al primo turno certamente sarebbe fondamentale avere l'accordo anche al Movimento 5 Stelle. Il problema è che se ci si predispone a trovare un accordo va bene, se ci si predispone, come è accaduto troppe volte in passato, a dire l'unico accordo possibile è che noi ci diamo il nome nostro, non può funzionare, purtroppo è così. Grazie Roberto Giachetti, la lascio alla confusione dell'aula e della Camera, naturalmente anche magari di questo torneremo a raccontare. Roberto Giachetti, del Partito Democratico, vicepresidente della Camera. Saluto Marco Giorgino, che è docente di finanza al Politecnico di Milano. Giorgino, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Con lei vogliamo fare un punto su questo famoso quantitative easing della Banca Centrale Europea, cercando però il più possibile di spiegarlo nella maniera semplice. Cos'è il quantitative easing che potrebbe essere varato oggi? Ma allora, il quantitative easing vuole dire letteralmente facilitazione quantitativa, ma di che cosa si tratta in sostanza? È un'operazione attraverso la quale la banca centrale, nel nostro caso la Banca Centrale Europea, può comprare titoli o attività finanziarie detenute dalle banche, dando a queste banche cassa, quindi denaro, a fronte del quale denaro vengono ritirati questi titoli. Quindi di fatto alleggeriamo il bilancio delle banche trasformando i loro titoli in liquidità. E che benefici, chi ne beneficerà, Giorgino? Ma questo su un piano, diciamo, teorico e quindi prospettico, che vedremo gli effetti, realmente serve come strumento di politica monetaria a immettere più liquidità e quindi ad aumentare l'offerta di moneta nel nostro sistema monetario. Le banche sono un soggetto importante nell'ambito della trasmissione della politica monetaria e quindi l'auspicio è che questo denaro possa, attraverso le banche, finire nelle disponibilità, attraverso i prestiti, delle imprese e delle famiglie che stanno molto soffrendo in questa fase. Succederà? Guardi, gli interventi della BCE negli ultimi anni sono stati interventi importanti, non sempre questa liquidità è finita nei comparti dell'economia reale dove erano necessari, quindi famiglie e imprese. In questo caso potremmo immaginare che invece questo possa avvenire, le banche hanno bisogno di impiegare e quindi buona parte di questa liquidità potrebbe realmente andare a dare più linfa all'economia, al sistema economico, quindi imprese e famiglie, con effetti che poi sono quelli auspicati della BCE, perché il tema fondamentale in questo momento è che la nostra area monetaria ha dei prezzi che scendono, noi abbiamo bisogno di avere dei prezzi che salgono, quindi recuperare dei tassi di crescita dell'inflazione, e in questo senso il quantitative easing anche in altre aree del mondo ha funzionato, cito gli Stati Uniti dove oggi registriamo una grande crescita anche per effetto degli interventi di qualche anno fa della Federal Reserve. Ultima domanda, ci sono benefici per i possessori di titoli di Stato? Ma per i titoli, possessori di titoli di Stato in realtà c'è un beneficio immediato, che è il rialzo dei corsi. Il fatto che la BCE compri titoli farà aumentare i prezzi. Questo però si scaricherà su un calo ulteriore dei rendimenti. Quindi in questo senso i tassi potrebbero nel breve almeno scendere, e quindi in questo senso un beneficio sui prezzi per chi detiene, ma anche dei rendimenti decrescenti per chi andrà a comprare. Grazie a Marco Giorgino, docente di finanza al Politecnico di Milano, per essere stato con noi e averci aiutato a capire. Adesso parliamo di influenza, perché c'è un po' di preoccupazione, abbiamo parlato anche la settimana scorsa, a causa del calo delle vaccinazioni. L'epidemia influenzale è alla sua terza settimana di diffusione e il picco è atteso tra l'inizio e la metà di febbraio, ma i casi sono in aumento, con circa 2 milioni di italiani già colpiti. Tre i virus in circolazione nelle ultime settimane, anche quello della cosiddetta influenza suina AH1N1, già noto e compreso nella composizione del vaccino che viene somministrato. Qualche timore legato invece a una possibile nuova variante del virus influenzale che si sta diffondendo in Stati Uniti e Nord Europa, la H3N2. A pesare sul bilancio finale in termini di numero di casi quest'anno sarà però il calo di vaccinazioni, stimato intorno al 15-20%, in seguito alla vicenda del Fluad, poi scagionato per alcuni decessi sospetti tra anziani. E sono ben 60 casi di persone per le quali è stato necessario ricorrere alla ventilazione assistita con l'apparecchiatura ECMO, la cosiddetta macchina salva polmoni. Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano. vediamo e stiamo vedendo se anche già degli effetti, perché la vaccinazione viene fatta ai soggetti fragili, ai soggetti per i quali l'influenza non è una banalità o comunque un fastidio che passa, ma un qualcosa che può determinare effetti pesantissimi a livello cardiaco, respiratorio, addirittura decessi. Io credo che questo vediamo adesso faccia riemergere la necessità, l'opportunità della vaccinazione anche tardiva. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È scomparso un medico italiano in Libia. La procura di Roma ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di rapimento con finalità di terrorismo. E sul fronte degli jihadisti ci sono rischi dall'immigrazione, ma è un errore confondere appunto terrorismo e immigrazione, dice il ministro degli esteri Gentiloni. Sul Quirinale Grillo chiede a Renzi di fare la prima mossa, fuori una rosa di nomi, scrive sul blog, e noi li faremo votare ai nostri iscritti. In Ucraina tornano le violenze, 13 morti nella fermata di un autobus e scambio di accuse tra ribelli filo russi e forze di Kiev. Indagine per truffa alle assicurazioni, tra i casi scoperti quello di una donna incinta, era stato simulato un incidente e soppresso il feto per avere il risarcimento. La borsa. Borse in diretta. Borsa che appare in accelerazione in attesa evidentemente delle decisioni della Banca Centrale Europea, delle quali abbiamo parlato un attimo fa, più 1,13% il FTSE MIB, più 1,09% il FTSE All Share, mentre è negativa Parigi che cede lo 0,13%, Francoforte lo 0,3% e positiva Londra che guadagna mezzo punto percentuale. Isabella Tasso, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Ne beneficia solo Milano delle aspettative su Draghi o anche le altre piazze finanziarie, per così dire, dei paesi periferici? Sì, ne beneficia Milano, ma ne beneficiano anche le piazze finanziarie dei paesi periferici. Madrid fa più 0,7, Milano, come dicevi, più 1,2%, mentre i listini continentali restano intorno alla parità con una certa prudenza. Ne beneficiano questi mercati perché sembrano i paesi che maggiormente potrebbero beneficiare del piano della Banca Centrale Europea mirato a contrastare deflazione e a sostenere l'economia. Per quanto riguarda Milano, naturalmente sostenuta anche oggi dalle banche popolari, con Emilia Romagna che fa più 4,16%, la Popolare Milano il 2,5%, ebbene anche Monte dei Paschi che guadagna il 2,21%, ma il titolo migliore oggi sul listino è Saipem che guadagna il 7%, come mai? Sì, dopo il più 6% di ieri, Saipem allunga ancora, fa un più 7%, prosegue quindi la fase di recupero dopo le perdite di quasi 40% che si sono accumulate da inizio di gennaio. Negativo ancora il lusso, anche oggi meno 2,07% TOTS, meno 1,20% Ferragamo, Moncler meno 0,79%. Grazie a Isabella Tasso, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E continuiamo a parlare di terrorismo internazionale e soprattutto di quello che sta avvenendo in Italia, perché mentre l'esecutivo, come vi abbiamo raccontato, si sta preparando ad approvare nuove norme, nel pomeriggio di oggi si discute già di quelle che sono le prime espulsioni. Vi abbiamo raccontato la vicenda dello studente turco della Normale di Pisa espulso, il quale tra l'altro scrive manda delle email ai giornali che gli chiedono informazioni e dice sì, io sono uno jihadista quanto lo è Nietzsche, e dice di richiamarsi al paganesimo, addirittura ad espulso per presunti contatti con lo jihadismo. Ci sono informazioni che parlano di una decina, così riferiscono alcuni quotidiani, di decreti di espulsione in arrivo per persone responsabili di una documentata violenza verbale o anche solo simbolica. E tra questi casi c'è il caso di un'espulsione già avvenuta di un uomo, un pakistano, si chiama Fakir Ghani, ha 26 anni ed è andato sotto processo, poi è stato espulso per una serie di mi piace su pagine Facebook jihadiste e forse anche per un post. Di questo vogliamo parlare col suo avvocato Maurizio Nardozza. Buongiorno avvocato e benvenuto. Sì, buongiorno. buongiorno a tutti. Allora, la voce. Si figuri. Fakir Ghani, appunto, tra l'altro dal 2001 in Italia, quindi insomma veramente da parecchi anni, volontario alla Croce Verde, operaio, quindi senza mai nessun problema. Ci spiega cosa è successo, Nardozza? Sì, in pratica ad oggi fondamentalmente noi non siamo in possesso di ulteriori informazioni che possono sostanzialmente dirci la posizione del signor Ghani, in quanto il Ministero, con una nota sulla quale poi appunto si è basata l'espulsione, riferisce di alcuni non precisati contatti o meglio ancora di alcuni accessi via web e via social network nel quale appunto questo cittadino pakistano avrebbe inneggiato così la jihad, e quindi sulla base di questo poi mi faccia capire una cosa, avvocato, lei mi sta dicendo che non l'hanno messa in condizione di difendere, nel senso non le hanno dato tutte le informazioni necessarie a capire se effettivamente quest'uomo stesse progettando qualcosa o fosse effettivamente collegato a qualche rete terroristica? Esattamente, purtroppo noi oggi non abbiamo atti in mano, quindi non abbiamo alcun tipo di prova, sulla base della quale poi è stata disposta l'espulsione immediata. Chiaramente questo sarà poi fatto oggetto di ricorso in Cassazione, perché appunto noi stiamo preparando un ricorso proprio sulla base della mancata possibilità di espedire comunque anche un diritto di difesa che appunto ribadisco che è un diritto costituzionalmente garantito. Ma mi faccio capire, Ghani è già stato rimandato in Pakistan o in questo momento vige solo il decreto di espulsione? No, il signor Ghani nella mattinata di ieri alle 10:25 è stato imbarcato dalla frontiera di Fiumicino e purtroppo ad oggi io non sono ancora stato in grado di conferire direttamente con lui, quindi non so se ha già raggiunto il territorio pakistano, Quindi su questo non ha certezza. E sento una cosa, è riuscito a contattare qualcun altro? Lui aveva dei familiari, dei conoscenti qua in Italia? Sì, lui aveva padre, madre e fratelli cittadini italiani, quindi regolarmente residenti con passaporto italiano. So del padre che appunto è ritornato in Pakistan già da qualche mese fa per altre motivazioni, quindi ad oggi contatti con i familiari non ne ho, anche perché insomma è una situazione abbastanza delicata quella che si è verificata. Perché voglio ribadire appunto che trattiamo di una persona che ha sempre svolto attività di volontariato presso la Croce Verde di Civitanova Marche. E quindi, insomma, con il beneficio del dubbio, sarebbe poi opportuno approfondire tutte quelle accuse che vengono mosse dal ministro. Che tempi prevede, avvocato, per lei? Ha parlato di un ricorso in Cassazione, che tempi ci dovrebbero essere? Il ricorso in Cassazione verrà presentato nei prossimi giorni, perché abbiamo un termine ben preciso previsto per legge, sui quali poi si seguiranno e verranno poi seguiti tutta un'altra serie di ricorsi relativi al provvedimento di revoca della carta di soggiorno, e che poi verrà fatto appunto nelle sedi opportune, quindi al TAR Marche nella fattispecie. La ringrazio, grazie a Maurizio. Prego. Nardozza, avvocato legale di Fakir Ghani, operaio calzaturiero espulso per sospette vicinanze all'ambiente terroristico e jihadista. Allora, ci sono tanti ascoltatori che in questo momento ci stanno scrivendo in merito a questo. Roberto da Lodi che ci scrive: ma fatevi furbi, avranno avuto le prove, ma l'avranno avuto evidentemente in uno stato di diritto non basta, e altri che dicono si fa bene ad espellerli, basta il sospetto. Tenete presente a quanto si potrebbe estendere questo principio, è per questo che abbiamo voluto sollevare il tema e naturalmente riflettere su questo tema. Solo qualche aggiornamento per quanto riguarda un'altra vicenda che è quella del medico che sarebbe scomparso in Libia, la notizia che vi abbiamo dato in apertura dei nostri titoli e sulla quale per il momento non ci sono particolari informazioni ulteriori rispetto a quelle che stanno filtrando dalla Procura di Roma, e però qualcuna ne filtra appunto. Procura di Roma che ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di sequestro di persona con finalità di terrorismo. Il medico sarebbe è il 70enne Ignazio Scaravilli, catanese. Di lui non si sa più nulla al pomeriggio del 6 gennaio scorso. È uno specialista ortopedico, era andato in Libia per dare il proprio contributo all'ospedale di Dar al-Wafa nella zona di Souk Talak. A segnalare l'allontanamento del medico sono stati i suoi colleghi, ma allo stato non ci sarebbero testimoni diretti della scomparsa. Il PM della Procura di Roma ha incaricato i carabinieri del ROS di compiere gli accertamenti. Una piccola segnalazione: nel corso della trasmissione, durante effetto giorno, abbiamo cercato di contattare i familiari del professor Ignazio Scaravilli, appunto scomparso in Libia, i quali ci hanno detto che per il momento preferiscono mantenere il silenzio e non parlare, anche perché è espressamente quello che gli ha richiesto la Farnesina. È stata proprio la Farnesina a dare la notizia questa mattina, con il ministro degli esteri Gentiloni, che appunto ne ha parlato, ha accennato a questa vicenda, ha detto che naturalmente le ricerche e le indagini sono in corso. Noi adesso ci fermiamo, ci prendiamo una pausa per il traffico, ci ritroviamo tra un attimo e poi vi aggiorneremo ovviamente sulle decisioni della Banca Centrale Europea, che sono attese a minuti, quantomeno quelle sui tassi, perché poi quelle sul quantitative easing, ossia sull'acquisto di titoli di Stato, del quale abbiamo parlato poco fa, arriveranno con la conferenza stampa del presidente della BCE Mario Draghi. Intanto traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ci sono notizie che arrivano in questi minuti e che arrivano dal Vaticano. In preparazione del prossimo sinodo, si apprende dal segretario del sinodo, il cardinal Baldisseri, gruppi di studio si occuperanno dei temi più sensibili, sono quelli che riguardano i tre punti che non hanno avuto la maggioranza qualificata all'assemblea dello scorso ottobre. Quali sono? Tra gli altri, la comunione ai risposati e la questione dei gay. Adesso sentiamo, è appena arrivata la decisione della Banca Centrale Europea per quanto riguarda i tassi, è appena stata battuta in questi minuti dalle agenzie. La BCE ha confermato il tasso di riferimento allo 0,05%, come era nelle attese. Andremo a vedere che cosa deciderà naturalmente la Banca Centrale Europea in merito al quantitative easing, ossia all'acquisto di titoli di Stato. Intanto sentiamo che cosa ha da dirci Mario Platero oggi. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, abbiamo varie notizie. Standard & Poor's, che si è beccata una multa da 77 milioni di dollari per presunte irregolarità nelle sue valutazioni del credito. Molto interesse in America sul fronte economico per le decisioni della BCE. Avremo parecchi spunti, ma devo dire i giornali americani e le televisioni continuano a parlare del discorso di Obama dell'altra sera, un discorso che il presidente, devo dire, ha pronunciato molto bene, con una grande sicurezza e soprattutto con questa inattesa sfida contro i repubblicani, che pure hanno vinto le elezioni appena 2 mesi fa. Ecco, dietro questa proposta, soprattutto quella per esempio per le tasse del presidente, dietro le sue posizioni, c'è comunque una piccola bugia che ci ha detto il presidente l'altra sera. Sentiamo. I have no more campaigns to run. My only agenda for the next 2 years is the same as the one I've had since the day I swore an oath on the steps of this Capitol. To do what I believe is best for America. Barack Obama, lo avete sentito, non ho più campagne elettorali da fare, dunque le mie proposte sono semplicemente le stesse che ho fatto il giorno in cui ho giurato fedeltà alla Costituzione sui gradini di questo Campidoglio, fare quel che credo sia giusto per l'America. Ecco, dov'è questa piccola bugia? Beh, sta nel fatto che il presidente, in realtà, invece di fare delle proposte concrete ai repubblicani, ha lanciato una vera e propria campagna elettorale, una campagna elettorale alla quale parteciperà fino in fondo, che è quella per la sua successione. Possibile che Barack Obama facesse in buona fede delle proposte per aumentare le tasse a un Parlamento repubblicano che odia le tasse e che, come vi ho detto, è stato appena eletto proprio grazie a una piattaforma antitasse e antigoverno? No, ma la risposta al perché di questa sua scelta, di questa scelta provocatoria del Presidente, è molto semplice. Il Presidente ha sottoscritto e lanciato una strategia politica che segnerà la campagna elettorale di Hillary Clinton e quella del Partito Democratico per le elezioni del 2016. There is nothing in the logic of the market to suggest that it must necessarily be so that there will be jobs for all. So Larry Summers, personaggio chiave, personaggio storico, l'avete sentito, dice: non c'è alcuna logica che oggi possa suggerirci che ci siano lavori per tutti. Perché vi parlo di Larry Summers? Perché molte delle proposte di Obama dell'altra sera si rifanno a tesi, proposte tecniche che sono state prelevate da un documento scritto proprio da Larry Summers e da Ed Bowles. Il titolo del documento: The Report of the Commission on Inclusive Capitalism. Ecco, il nuovo termine di cui si parla molto in questi giorni è questo: Inclusive Capitalism, capitalismo inclusivo, una nuova sfida, una nuova frontiera per il ruolo del capitalismo. Ecco, nonostante i pettegolezzi politici della capitale ci parlino di screzi profondi fra Obama e Clinton, di fratture anche sul piano personale, oltre che su quello politico, la realtà è che gli Obama e i Clinton fanno parte dello stesso gruppo, sono insieme, sono a braccetto. Obama deve in buona parte a Bill Clinton la rielezione del 2008 e il gruppo di contorno fra i Clinton e gli Obama è talmente affiatato da risultare, devo dire, quasi incestuoso. Larry Summers, per esempio, è stato lanciato nella carriera politica da Bill Clinton, era un professore universitario, e poi diventato il principale consigliere economico di Barack Obama. Non solo, il rapporto che ha firmato con Ball è stato pubblicato dal Center for American Progress. The country needs to tackle this problem. I think with the deadline of 2018 exists for states that want to join together to try to reduce emissions in the most cost-effective way possible. Avete ascoltato John Podesta, che ha fondato il Center for American Progress, che è uno dei più influenti think tank dei democratici. E chi è John Podesta? Beh, Podesta è stato capo di gabinetto di Bill Clinton e dopodiché è tornato alla Casa Bianca un paio d'anni fa come principale consigliere politico di Barack Obama. Sarà il capo o comunque il principale stratega della campagna elettorale di Hillary Clinton. Dunque, fra qualche mese lascerà la Casa Bianca. Ecco perché il discorso dell'altra notte di Obama ha rappresentato più una piattaforma elettorale per il suo partito che una concreta offerta di lavoro dei repubblicani. E dunque i conti tornano. Middle class economics means helping working families feel more secure in a world of constant change. Una strategia per la classe media è una strategia che deve portare più sicurezza. Ecco, questo è il messaggio di nuovo dell'altra sera di Barack Obama. È possibile che questa sua strategia, questo suo discorso, questa sua proposta di puntare sulle tasse funzioni? Beh, devo dire, è possibile. Perché? I repubblicani hanno subito risposto di no a tutto, soprattutto a un aumento delle aliquote fiscali, che devo dire non era neanche troppo marcato, perché la proposta di Obama di ridurre le tasse per coloro che hanno redditi fino a $100,000, quella di triplicare le deduzioni per ogni figlio a carico, quella di rendere gratuita l'iscrizione ai community college americani, che sono poi le università pubbliche, diventano, queste proposte diventano uno strumento per attirare l'attenzione, per fare presa su un gruppo elettorale che 20 anni fa si è rivolto ai repubblicani, abbandonati i democratici. Ma c'è anche un'altra ragione che giustifica l'introduzione di questo capitalismo inclusivo. Secondo Larry Summers è fondamentale procedere in una ridistribuzione del reddito, perché senza il recupero di un livello di reddito accettabile ci saranno meno consumi, l'economia non potrà crescere e si rischieranno tensioni sociali. If we're gonna have arguments, let's have arguments. But let's make them debates worthy of this body and worthy of this country. Ed ecco di nuovo Obama che dice avremo differenze, litigheremo sicuramente, però litighiamo discutendo con dignità, con quella dignità che si compete a questa istituzione, cioè al Parlamento e al nostro paese. Ecco, temo però che non parlasse di quelle sue proposte tecniche sulle tasse, sul community college, ma già della campagna elettorale del 2016, alla quale parteciperà in modo più attivo che mai. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Prima di chiudere questa puntata di Effetto Giorno, come sempre in questi casi quando sono attese decisioni importanti da parte della Banca Centrale Europea, torniamo a collegarci con Francoforte e con Alessandro Merli. Alessandro. Sì, buongiorno. Come sempre la BCE ha comunicato a quest'ora la sua decisione sui tassi che come previsto non sono stati modificati. Ha aggiunto però una riga significativa al suo abituale comunicato, cioè che alle 2.30, alle 14.30 alla sua conferenza stampa il Presidente Draghi annuncerà ulteriori misure, il che alimenta ancora di più naturalmente l'attesa per questo annuncio su un piano di acquisto di titoli di Stato che la BCE lancerà oggi e a questo punto è ormai certo, vedremo quali sono i dettagli che annuncerà Draghi. E come ci dicevamo prima, Alessandro, vedremo anche quali saranno i tempi di questo acquisto di titoli di Stato, perché non è detto che scattino subito, anzi. È probabile che comincino da marzo, è possibile anche che alcuni dettagli vengano lasciati fuori dall'annuncio di oggi, anche perché non tutti gli accordi sono stati raggiunti e non tutti gli elementi tecnici sono stati definiti. È possibile che questi acquisti comincino dal mese di marzo, quindi non come nel 2010-2011 quando la BCE acquistò altri titoli di Stato dei paesi in difficoltà. Gli acquisti cominciarono addirittura mentre Trichet stava ancora parlando in conferenza stampa. Non credo che questo si verificherà oggi. Grazie ad Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Segnalo anche una in forza di questa riga nel comunicato della Banca Centrale Europea, un lieve rafforzamento delle borse, in particolare di Milano, che in questo momento guadagna l'1,4% sul FTSE MIB e l'1,33% sul FTSE All Share. È tutto per Effetto Giorno, i ringraziamenti, Paolo Corleoni in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, come sempre tutta la redazione di Radio 24. I nostri contatti, Effetto Giorno @radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Noi ci risentiamo con la trasmissione domani alle 3 e tra un attimo, come sempre, con GR24.